Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nel caso del ministro Guidi, con grande serietà, lei è stata la prima a dire lascio la carica, dimostrazione che qualcosa in Italia è cambiato e che per ragioni di opportunità si può fare anche un passo indietro. L'Italia cambia, dice Renzi da Washington, dove questi giorni sapete che è in viaggio lungo gli Stati Uniti, oggi era Washington per questo summit sulla sicurezza nucleare insieme ad Obama. Lui dice che le dimissioni della ministra Guidi dopo quello che è successo, così immediate, dimostrano che l'Italia è cambiata. Quindi a voi l'ardua sentenza, come sempre attraverso i vostri messaggi, la pagina Facebook di Effetto Notte, i WhatsApp, eccetera. Il numero, ve lo ricordo, è 349-238-6666. Parleremo naturalmente di questo, perché è venerdì, ultima puntata della settimana di Effetto Notte, quindi bilancio della politica della settimana, che ovviamente si concentra un po' tutta su questo bilancio, un po' tutto su il caso Guidi, la ministra Guidi, con le ripercussioni. Tanto ci saranno gli aggiornamenti nell'inchiesta giudiziaria, però anche ci sono ovviamente delle grosse ripercussioni politiche sul governo, col Movimento 5 Stelle che chiede la mozione di sfiducia, ci sta anche gran parte dell'opposizione, e poi che ricadute potrebbe avere, che implicazioni per quanto riguarda il referendum prossimo venturo, quello del 17 aprile, sulle cosiddette trivelle, cioè sulla durata delle concessioni per i giacimenti petroliferi. Molte le domande, ci occuperemo anche di meteo come sempre il venerdì per sapere che fine settimana ci aspetta. Ci sono anche delle novità forse importanti sul caso Regeni, ne parleremo qui naturalmente a Effetto Notte. Voi concentratevi, perché vi faccio come sempre il riassunto della giornata per avere un quadro completo delle cose che sono successe, le cose più importanti, e poi come sempre man mano entriamo nel cuore degli argomenti. Il caso Guidi, le opposizioni preparano una mozione di sfiducia contro il governo, Renzi difende Boschi e l'emendamento incriminato. L'omicidio di Giulio Regeni, forse una svolta dall'Egitto, il quotidiano Al-Akhbar parla di un dossier che la delegazione della sicurezza egiziana consegnerà agli inquirenti italiani con i risultati delle indagini sul giovane ricercatore. Il summit sul nucleare in mano ai terroristi, dice Obama, aprendo il vertice, è la minaccia più grande. Libia, il primo ministro designato, Serraj, si rafforza, il premier ribelle scappa a Misurata. Disoccupazione in Italia sale a febbraio, finisce l'effetto incentivi. Migranti, Amnesty denuncia, la Turchia attua rimpatri forzati in Siria. Domani giornata mondiale dell'autismo e per celebrarla da stasera i principali edifici della città di tutto il mondo si illuminano di blu. Calcio, previsti anche metal detector all'Olimpico per il derby Lazio-Roma di domenica. Partiamo quindi dalle dimissioni di ieri della ministra dello sviluppo economico Guidi a seguito dell'intercettazione che l'ha travolta. Renzi però al momento non è indagata. Renzi difende dagli Stati Uniti il suo governo, le opposizioni però incalzano, i 5 Stelle sfidano tutti e dicono si vada alla sfiducia all'intero esecutivo. Poi ci sarà, vi dicevo, questo ampio approfondimento qui Effetto Notte più tardi sugli sviluppi politici della vicenda. Intanto, per quanto riguarda invece l'aspetto giudiziario, da lunedì cominceranno gli interrogatori delle persone coinvolte nell'inchiesta di Potenza. Si dimette da commissario di Confindustria Siracusa e si dichiara estraneo ad ogni illecito. Gianluca Gemelli, compagno di Federica Guidi, indagato dalla procura di Potenza per concorso in corruzione e traffico di influenze, ha già chiesto di essere ascoltato dai magistrati per chiarire. Lunedì cominceranno gli interrogatori di garanzia delle persone coinvolte nell'inchiesta che ha portato a 6 arresti ai domiciliari, 2 divieti di dimora e la sospensione della produzione di petrolio Eni in Val d'Agri. 2 i filoni. Il primo porta al centro Oli dell'Eni a Viggiano per illeciti commessi nello smaltimento di rifiuti, l'altro poco distante a Corleto Perticara, dove il colosso francese Total Tempa Rossa. È qui che entra in gioco Gianluca Gemelli e di conseguenza Federica Guidi. Tutto parte dalla famosa intercettazione telefonica in cui il ministro rassicurava il suo compagno su un emendamento prima sfilato dallo Sblocca Italia a novembre, poi rientrato nella legge di stabilità a dicembre. Un emendamento per il quale si sarebbe interessata e che di fatto avrebbe favorito il progetto di estrazione di petrolio di Tempa Rossa, attraverso il quale Gemelli avrebbe potuto ottenere subappalti per 2,5 milioni di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Renzi ha parlato, vi dicevo prima, degli Stati Uniti, dove si è aperto il summit sul nucleare, aperto dal presidente americano Obama a Washington. But we know that Al-Qaeda has long sought nuclear materials. Individuals involved in the attacks in Paris and Brussels videotaped a senior manager who works at a Belgian nuclear facility. ISIL has already used chemical weapons, including mustard gas, in Syria and Iraq. There is no doubt that if these madmen ever got their hands on a nuclear bomb or nuclear material, they most certainly would use it to kill as many innocent people. Ma i terroristi, ha detto Obama, e mi ero persa dietro alcuni messaggi, una delle minacce più grandi, dice, dobbiamo ridurre il rischio di terrorismo nucleare. Non c'è dubbio che se mai i folli dovessero mettere le loro mani sul materiale nucleare, quasi sicuramente lo utilizzerebbero per uccidere il maggior numero possibile di persone innocenti. Così ha detto Obama in questo vertice sul nucleare, sulla sicurezza nucleare nel mondo, dice, dobbiamo ridurre il rischio di terrorismo nucleare. Questo è il perfetto esempio di sfida del XXI secolo in ambito di sicurezza che nessuna nazione può risolvere da sola, ha detto Obama. Sentivamo quindi Renzi parlare anche di Libia, perché nella notte è arrivata una svolta nel paese nordafricano. Dopo lo sbarco a Tripoli del premier designato, appoggiato dalla comunità internazionale, Fayez al-Sarraj, il capo del governo ribelle Khalifa Gvel avrebbe lasciato la capitale libica per raggiungere la sua città d'origine, Misurata. Lo sostengono fonti e media locali, secondo cui Gvel sarebbe partito nella notte convinto da una delegazione di capi misuratini che invece sostengono Sarraj. Tuttavia, il premier ribelle non ha presentato delle dimissioni formali e fonti a lui vicine, tra cui il suo segretario, smentiscono la sua fuga assicurando che si trova ancora nascosto a Tripoli. Il premier Sarraj, a capo del nuovo governo chiamato di Concordia Nazionale, nella base navale che usa come quartier generale, ha intanto iniziato a ricevere una sequela di dignitari tripolini, tra i quali il governatore della Banca Centrale Libica, nonché i sindaci delle 13 municipalità di Tripoli che gli avrebbero dichiarato il loro sostegno. Sarraj godrebbe anche dell'appoggio di 10 città costiere della Libia, tra cui Sabrata e Zuwara. Su un consolidamento del governo di Concordia Nazionale che in Libia può sopporsi all'ISIS, conta il presidente americano Obama, lo stesso del nostro ministro degli esteri Gentiloni, il quale ha fatto sapere che Sarraj non ha chiesto contributi militari per ora, bensì aiuti economici, umanitari e medici. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di un paese come la Libia, parliamo di migranti. Almeno 170.000 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare nei primi tre mesi dell'anno e il numero di morti è salito a 620. Questo lo riferisce l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, rendendo noto un conteggio non ufficiale che include gli arrivi di ieri in Italia e diverse centinaia di migranti e rifugiati che si ritiene siano entrati in Europa attraverso le acque spagnole. Il totale stimato sarebbe di 169.060, che è pari a più di 8 volte il numero registrato nei primi tre mesi dell'anno scorso. Quindi nei primi tre mesi di quest'anno si è avuto un numero maggiore di 8 volte rispetto all'anno scorso di migranti. E come denuncia Amnesty International, da metà gennaio la Turchia ha rimpatriato con la forza circa 100 rifugiati siriani al giorno, tra cui anche donne e bambini, alla vigilia dell'avvio lunedì dell'accordo di riammissione con l'Unione Europea. L'omicidio di Giulio Regeni, vi dicevo, forse c'è una svolta, insomma, siamo prudenti, martedì prossimo gli inquirenti egiziani saranno a Roma per consegnare il dossier sul caso Regeni agli omologhi italiani. Nel rapporto ci sarebbe anche il ruolo dei servizi segreti egiziani e potrebbero quindi esserci delle parziali ammissioni. Informazioni, foto, ma soprattutto i rapporti stilati dall'intelligence egiziana sugli incontri tra Giulio, i lavoratori e i sindacalisti. Le autorità del Cairo si preparano a consegnare alla Procura di Roma tutta la documentazione richiesta sul caso Regeni e se la notizia di Al-Akbar fosse confermata, per la prima volta entrerebbero in scena i servizi segreti, i quali, secondo il quotidiano, avrebbero seguito le mosse del giovane ricercatore fino alla sua scomparsa il 25 gennaio scorso. Il rapporto chiarirà le piste seguite nelle indagini, annuncia il Ministero degli Interni egiziano, compresa probabilmente l'ultima, il tentativo di sequestro da parte della banda di criminali poi uccisi. Vogliamo verità, ribadisce la Boldrini. Che cosa gli è capitato a quel giovane ricercatore? Ci danno ogni giorno una versione diversa. Il punto cruciale è ricostruire cosa ha fatto Giulio e chi ha incontrato prima di sparire. Per questo gli inquirenti italiani chiederanno i tabulati telefonici riconducibili al suo cellulare mai ritrovato e a una decina di amici e conoscenti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è anche una notizia dalla Nigeria. Vi ricordate che la settimana scorsa avevamo parlato di questo video del leader di Boko Haram, che è questo gruppo di integralisti islamici nigeriani che sono legati anche all'ISIS? Bene, il leader aveva detto in un video, si era visto questo video tutto pallido e maciato, aveva detto basta, sono arrivato alla fine, la resa di Boko Haram, finisce qui la nostra storia. Invece, avevamo espresso i nostri dubbi naturalmente, Boko Haram adesso ha diffuso un nuovo video in cui smentisce l'ipotesi di un'eventuale resa, annunciata appunto giorni fa dal capo. Nel video un militante col viso interamente coperto da un foulard nero, affiancato da 8 uomini armati e mascherati, annuncia: non c'è tregua, non ci sono negoziati, non deponiamo le armi, questa guerra non si fermerà. Sono anche loro dei terribili tagliagole, vi ricordo che sono il gruppo integralista islamico che ha rapito centinaia e centinaia di ragazze e di donne di cui non si sa più nulla. Torniamo in Italia con i dati sulla disoccupazione, anzi parliamo prima di quella americana. In marzo il mercato del lavoro americano ha confermato la sua solidità con un saldo positivo di 215.000 posti, mentre il tasso di disoccupazione è risalito leggermente, ma viene interpretato come il segnale di un incremento degli americani che stanno cercando lavoro. In Italia invece i posti di lavoro tornano a calare come non accadeva da mesi. Un mercato del lavoro con indicatori discordanti, quello messo in evidenza dall'Istat. La disoccupazione a febbraio torna allora a salire rispetto al mese precedente, un 17%, più 0,1. Il fenomeno però non riguarda la disoccupazione giovanile, che scende dello 0,1, arrivando a 39,1%. Altro discorso per gli occupati. La stima di febbraio segna un meno 0,4%, con la perdita netta di 97.000 unità. Il saldo nell'anno solare è comunque positivo, con quasi 240.000 dipendenti in più a tempo indeterminato, ma è proprio questa tipologia di contratto a soffrire maggiormente a febbraio, complice il taglio degli sgravi contributivi previsto dalla manovra per il 2016. Queste oscillazioni, spiega il ministro del Lavoro Poletti, sono legate alle incertezze economiche e non modificano la tendenza positiva dell'occupazione nel medio periodo. E se il problema è la crescita, questa guarda il ministro Padoan. Il governo, spiega il responsabile dell'economia, sta preparando un ulteriore pacchetto di misure. Infine, capitolo pensioni, manifestazione unitaria domani di CGIL CISL UIL contro la legge Fornero e per una maggiore flessibilità in uscita. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Buona notizia invece per il mercato italiano dell'auto, che continua a crescere. A marzo le immatricolazioni sono state 190.000, cioè il 17,4% in più dello stesso mese del 2015. Per la cronaca, l'immobiliarista Danilo Coppola è stato condannato a 9 anni di reclusione per il crack da 300 milioni di euro provocato dal fallimento di una serie di società. L'hanno deciso i giudici della 10ª sezione penale di Roma, che hanno disposto altre 9 condanne e 4 assoluzioni, tra cui quella della moglie di Coppola, Silvia Necci. E adesso parliamo di autismo, perché il 2 aprile, cioè domani, è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Lo scopo della giornata naturalmente è quello di contribuire a conoscere l'autismo, a migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo. E tra l'altro c'è un'iniziativa già cominciata questa sera. Il colore dominante della giornata di domani è blu e si rinnova la campagna già da stasera, vi dicevo, mondiale, che si chiama Light It Up Blue, che prevede di illuminare di blu i principali edifici delle città di tutto il mondo come testimonianza della sensibilità verso questo problema. Vi ricordo che l'autismo è una sindrome comportamentale associata a un disturbo nello sviluppo della struttura del cervello e delle funzioni nervose, con alterazioni dello sviluppo psicocognitivo ed emozionale, anche se però è stata raccontata in film, in libri, eccetera, ancora si sa poco. E ne ha scritto molto, la conosce bene Gianluca Nicoletti, il nostro Gianluca. Melog 24. Ciao, buonasera. Ciao Gianluca, 2.4, scusa. Gianluca, allora, non per niente si chiama Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, no? Non è semplicemente Giornata Mondiale dell'Autismo, perché ancora è necessaria una maggiore consapevolezza. Ma sì, il problema, conosco autismo perché ho un figlio autistico, lo prometto, non soltanto perché ne scrivo, ne parlo, certo. Ho da fare, e quindi sento fortemente. Cerco di trasferire al resto del mondo il fatto che è un problema grosso. Chiaro, il mondo è pieno di problemi, ognuno sente maggiormente i problemi che sente sulla sua carne, ma in particolare è un problema emergente, crescente. Nasce un bambino autistico ogni 80, cominciano a crescere sempre di più. C'è una causa a base genetica, questo è chiaro, ma ci sono delle concause di tipo ambientale. Si sta studiando, se ne sa pochissimo. Sta di fatto che ci sono sempre più bambini autistici, sta di fatto che i bambini autistici crescono e diventano grandi, sta di fatto che da qui a qualche anno, questa è la 9ª giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, tutti quelli che oggi vediamo in televisione, ne sentiamo parlare come bambini autistici, sono adulti autistici, che se non si prenderà in tempo una abilitazione seria a dare loro delle autonomie, troveremo un numero grossissimo di adulti non autosufficienti. E al momento, lo dico sulla mia esperienza e lo dico prendendone una responsabilità, per un adulto autistico non ci sono grandi speranze di vita dignitosa, se non quelle di finire in un istituto. Nell'istituto non augurerei di passarci non soltanto un giorno, nemmeno al mio peggior nemico. Quindi bisognerebbe cominciare a pensare, qualcuno ci sta pensando, c'è anche una legge al Senato sul dopo di noi, che i genitori comincino assieme alle istituzioni a pensare dei modelli di sopravvivenza dignitosa dei propri figli quando loro non ci saranno più a pensare a fargli fare la vita che tutti i giorni con grande fatica facciamo fare ai nostri figli. Grazie Gianluca Nicoletti, vi ricordo che poi tornano tutti i giorni dalle 12 alle 13 qui su Radio 24 con Melog. Quindi domani giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. C'è una scoperta scientifica che pubblicata dalla prestigiosa rivista Science in cui si parla di programmare le cellule proprio come si fa con i computer per renderle capaci di riconoscere e reagire ai tumori ma anche ad altre malattie. È l'escamotage riuscito ai ricercatori del MIT di Boston e del National Institute of Standards and Technology che hanno creato un linguaggio di programmazione delle cellule con il quale disegnare circuiti complessi del DNA assegnando nuove funzioni alle cellule viventi. Ancora però non viene precisato con che tempi sarà possibile applicarlo poi sugli esseri umani. Parliamo anche della musica del bosone di Higgs, un suggestivo mix della quinta di Beethoven e della cavalcata delle Valchirie di Wagner. Suona così, tradotta in musica, la più celebre delle particelle, il bosone di Higgs, grazie al quale ogni cosa ha una massa. Parola di Rebecca Einstein, fisica sperimentale, dice: è stato un modo per conoscere qualcosa di più delle più piccole particelle dell'universo, che quindi danno messe insieme questa musica simile a quella di Beethoven. Questa ricercatrice è del CERN, ha cercato di presentare in tono serio quello che invece è il pesce d'aprile 2016 del CERN. In chiusura, il calcio, e quindi non ci potevamo risparmiare un pesce d'aprile, il calcio per quanto riguarda il derby Lazio-Roma di domenica all'Olimpico si prospetta un derby blindato perché ci saranno delle misure antiterrorismo, controlli anche con metal detector di cui parleremo più tardi. Intanto vedo che stanno arrivando i vostri messaggi sulla vicenda Guidi, di cui torneremo a parlare tra poco. Angelo da Siena, tra la pagina Facebook e il 349-238-6666, dove potete mandare gli sms e anche i WhatsApp, dice: Angelo da Siena, ci vuole serietà da parte di tutti i ministri, ... Renzi Guidi contromano, cambia verso, dice un umorista balanzone. Come mai la Guidi era intercettata, chiede un altro ascoltatore? Beh, perché appunto c'è un'inchiesta, ci sono diversi filoni di inchiesta lì sul giacimento Eni in Basilicata, uno sullo smaltimento rifiuti, l'altro era su questo giacimento a cui era interessato per l'appunto il compagno di Federica Guidi. E poi ancora i vostri messaggi prima della pausa. Vito dice: penso che Renzi abbia superato da grande maestro Silvio, potete parlare, straparlare, ma lui fa credere di agire e dispensa zuccherini che allettano. La sinistra interna è ininfluente, Brunetta si esaurisce nel nome, Salvini indossa tute, Meloni studia romanesco, Bertolaso insegue la nipotina, viva Renzi e chi lo creò. Questa è la sintesi di questo ascoltatore. Giuliano: Renzi ha una strana concezione del cambiamento, sarebbe stato cambiamento se quella telefonata non fosse mai esistita. Per lui è cambiamento se ti dimetti quando ti beccano con le mani nella marmellata, non quando non hai le mani nella marmellata. Poi un altro ascoltatore, Luigi, sulla stessa onda, dice: se non fossero saltate fuori le intercettazioni, la Guidi sarebbe ancora al suo posto, quindi caro Renzi non è cambiato nulla. Ci risentiamo a momenti. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, vedete, pochi istanti e ritorniamo a parlare delle notizie più importanti. Tra poco ve le ricordo brevemente quali sono i titoli e poi cominciamo a fare il bilancio della politica della settimana. Abbiamo detto che si concentrerà naturalmente sulla notizia che è esplosa ieri, che riguarda la ministra Guidi, che poi si è dimessa. Ancora qualche vostro messaggio su questa vicenda attraverso il 349-238-6666 per gli sms e i WhatsApp, anche la pagina Facebook di Effetto Notte. Luciano scrive: beh, è contento lui. lui, Renzi, per me è un bravo parlamentare, deve essere onesto, pensare al popolo italiano, combattere per fare leggi utili per i più deboli, quando ha fatto tutto questo andarsene, lasciare il buon esempio che Italia sarebbe se avessimo gente così a comandare. Roberto dice, bell'ennesimo scandalo dei nostri politici, sicuramente non sarà l'ultimo, credo il marciume è così profondo che bisognerebbe appaltare una fabbrica di veleno per topi per eliminare sempre questa gentaglia che gli italiani non si meritano, buon lavoro, eccetera, eccetera, grazie. E allora, quali sono le notizie più importanti, se ve le siete perse, non aprendo, non accendendo la radio alle 21, puntuali, eccole qua. Renzi difende il governo e la ministra Boschi, mentre il Movimento 5 Stelle attacca e chiede la sfiducia, e il presidente del Consiglio dire si è dimesso anche Gemelli, che lascia Confindustria. Svolta dall'Egitto, Giulio Regeni era seguito dai servizi segreti, potrebbero esserci delle prime ammissioni il prossimo 5 aprile, quando gli inquirenti italiani incontreranno a Roma quelli egiziani. Finisce per quanto riguarda la disoccupazione in Italia l'effetto incentivi e la disoccupazione sale a febbraio. Serraj in Libia, il primo ministro designato dall'ONU, si rafforza, il premier ribelle invece scappa a Misurata, 10 città passano col nuovo governo e Renzi assicura il pieno sostegno. I leader del mondo sono da Obama per il vertice su ISIS e sicurezza e sull'energia nucleare, e Obama dice dobbiamo fare molto di più perché sarebbe un'arma terribile in mano ai terroristi, quella nucleare. Amnesty che denuncia per quanto riguarda i migranti i rimpatri forzati in Siria da parte della Turchia, e poi il mercato dell'auto ancora in volo in Italia. Dicevo allora che nel bilancio della politica della settimana, come sempre qui che faccio con voi, con l'ospite il venerdì, è sicuramente tutto concentrato sul caso Guidi, che offusca tutto il resto. Si tratta appunto delle dimissioni di ieri sera della ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, avvenuto poco dopo la pubblicazione, ve lo ricordo, di un'intercettazione agli atti di un'inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti in Basilicata che l'accusa di favori al proprio compagno Gianluca Gemelli, il quale è indagato. La ministra non è indagata, l'ex ministra. Nell'intercettazione, parlando col suo compagno, Guidi gli garantiva il via libera a un emendamento alla legge di stabilità, quindi una modifica introdotta nella legge di stabilità che andava incontro agli interessi imprenditoriali di Gemelli. Tutto parte da un'inchiesta della Procura di Potenza sulla gestione dei rifiuti nel centro ENI in Basilicata, inchiesta che ha un filone parallelo sull'impianto di Tempa Rossa nella Val d'Agri. Tempa Rossa è un giacimento petrolifero situato nell'alta valle appunto del Sauro in Basilicata, e in questo filone è indagato il compagno della Guidi, Gemelli, accusato di traffico di influenze illecite proprio per i suoi rapporti con la ministra. E l'inchiesta ha portato all'arresto di 5 persone. E cosa dicono queste intercettazioni? La Guidi, ve ne racconto qualcuna, al telefono il 13 dicembre scorso lo rassicura Gemelli, dice dovremmo riuscire a mettere dentro il Senato, se d'accordo anche Maria Elena, cioè intende la Boschi, quell'emendamento che mi hanno fatto uscire quella notte alle 4 di notte, rimetterlo dentro la legge, quell'emendamento alla legge di stabilità, e a questo punto se riusciamo a sbloccare anche Tempa Rossa dall'altra parte si muove tutto. Dice la Guidi in questa intercettazione, il compagno le chiede se la cosa riguardasse i suoi amici e la ministra gli risponde, certo, hai capito, è proprio per questo che te l'ho detto. E a quel punto Gemelli chiama subito il rappresentante della Total, la compagnia petrolifera francese, e fa sapere insomma che c'è questo sblocco per il giacimento di Tempa Rossa. La ministra ieri ha scritto una lettera a Renzi, cui diceva, insomma, continuava a confermare la sua correttezza, però diceva per questioni di opportunità mi dimetto. E Renzi da Washington, dagli Stati Uniti, diceva, cara Federico, ho apprezzato molto il tuo lavoro, serio, eccetera, però capisco e condivido per ragioni di opportunità le tue dimissioni. Ora che cosa succede? Intanto Renzi dovrà sostituirla con qualcun altro, la sostituire la Guidi. Per ora ha preso lui il ministero ad interim. La ministra Boschi, anche in questo caso, dopo lo scandalo da Banca Etruria, viene richiamata in causa, ma a che livello, ci si chiede? E poi le opposizioni pensano a una mozione di sfiducia, soprattutto il Movimento 5 Stelle, che addirittura chiede la solidarietà anche della minoranza Dem. E poi che implicazioni avrà tutta questa vicenda anche sul prossimo referendum sulle trivelle, il 17 aprile, cioè sulle concessioni per l'estrazione di idrocarburi nei mari italiani. Ne parliamo con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara. Sì, buonasera a tutti. Bentornata Barbara. Grazie. Allora, la reazione di Renzi è stata quella un po' di girare un po' a proprio favore quello che poteva essere un boomerang, dicendo: vedete, appena è successa questa cosa, Trackett si è dimessa in poche ore, quindi questo significa che l'Italia è cambiata, perché ha ricordato nel governo Letta, la ministra Cancellieri non si era dimessa, finché non è finita la legislatura, lì è rimasta. Qual è intanto il tuo primo commento su questa vicenda? Poi vediamo capitolo per capitolo che si apre. Ma allora, diciamo, la prima fotografia è quella di un governo che si trova in una situazione particolarmente delicata, perché questo scandalo, diciamo, arriva a poche settimane, a meno di 2 settimane dal voto sul referendum che riguarda le trivelle, e comunque a 2 mesi dalle elezioni amministrative, e poi sappiamo che a ottobre c'è, come dire, la madre di tutte le battaglie per Renzi, che è la riforma costituzionale. Quindi non c'è dubbio che questa tegola che arriva sul governo pesa e rischia di pesare molto. Le dimissioni della Guidi non bastano, le opposizioni sono in sorte come al solito, e quindi presenteranno, sia pure divise, mozioni di sfiducia, però non c'è dubbio che per il governo questa è un momento di estrema difficoltà. C'è da dire che poi questa vicenda va vista in 2 sensi, cioè uno è diciamo lo scandalo, dico tra virgolette scandalo, sulla Guidi che avverte il proprio compagno sul passaggio dell'emendamento, e l'altro è il ruolo della Boschi in questa vicenda, che chiaramente a differenza della Guidi è molto più vicina a Renzi, e che già a sua volta era stata toccata ed è toccata dallo scandalo per la Banca Etruria in cui è coinvolto il padre. Quindi tu vedi 2 pesi e 2 misure? No, non vedo 2 pesi e 2 misure, perché sinceramente, se devo essere oggettiva, il riferimento che c'è nell'intercettazione al ministro Boschi è abbastanza scontato, nel senso che, come ha detto peraltro anche la Boschi oggi, ha rivendicato... Ah, vogliamo farla sentire allora? Scusa se ti interrompo, okay. Così la facciamo sentire dalla viva voce, poi commentiamo. Il ministro per i rapporti col Parlamento, cioè io, fa un lavoro che è quello di portare in aula tutti i provvedimenti del governo, tutti. E quindi il ministro per i rapporti col Parlamento, cioè io, da regolamento, deve verificare e autorizzare tutti gli emendamenti del governo. La Campa Rossa è un progetto strategico per il Paese che prevede molti nuovi occupati nel Mezzogiorno, e quindi lo rifermerei domattina. Lo dimostra il fatto che in tanti hanno votato quell'emendamento. Io firmo emendamenti tutti i giorni, ne ho firmati a decine. Quindi praticamente è il mio ruolo scontato questo di firmare. Sì, solitamente il ministro per i rapporti del Parlamento in qualunque governo, appunto, non potendosi occupare, ovviamente non avendo competenze a 360 gradi, poi fa riferimento agli esponenti, ai tecnici che su quelle norme hanno lavorato, e quindi poi li vista e diventano emendamenti del governo. Però c'è un altro aspetto secondo me significativo, cioè sia Renzi e la Boschi, ma Renzi soprattutto, rivendicano il merito di questo emendamento, no? Anche sì, Renzi l'ha detto. Lo vogliamo sentire, Barbara, visto che mi provochi? Allora sentiamo Renzi quando dice, vediamo se lo ritrovo, si dice un progetto Tempa Rossa sacrosanto. Il provvedimento di cui stiamo parlando, il provvedimento di Tempa Rossa, è un provvedimento giusto. Cioè, vorrei che fosse chiaro agli italiani, stiamo parlando di un provvedimento che porta posti di lavoro, è una cosa che io stesso avevo annunciato mesi prima, quindi è una cosa sacrosanta da fare, non è una cosa della quale ci vergogniamo. Aver consentito a delle persone di venire in Italia e fare degli investimenti, creando quindi posti di lavoro, è una cosa sacrosanta. Io lavoro per questo, io lavoro perché si creino i posti di lavoro per gli italiani. Quindi in realtà difende anche quel progetto a cui era interessato. Beh, in effetti poi c'è da dire che questo progetto Tempa Rossa, come tutte le cose che ci sono in Italia, è da anni che va avanti. Cioè, era strategico per il governo Berlusconi, era strategico per il governo Monti, era strategico per il governo Letta, è strategico, come abbiamo sentito, per il governo Renzi, e comunque va detto che questo progetto in realtà è fermo, perché poi alla fine di tutto questo comunque il progetto è bloccato, perché ci sono dei problemi di carattere burocratico, che erano su questi che interveniva l'emendamento rispetto al blocco di un comune che su cui sul piano regolatore, per cui praticamente questo emendamento avrebbe permesso di scavallare il blocco comunale, almeno queste erano le intenzioni, in realtà il blocco c'è ancora e quindi il progetto non è partito. Però le conseguenze politiche sono proprio nella difficoltà del governo in questo momento, cioè di un Renzi che si ritrova a dover affrontare, ad avere davanti più fronti, quello delle amministrative con i problemi che ha anche all'interno del suo partito e quindi col rischio che poi i candidati del PD subiscano un'emorragia di voti provocata dal dissenso interno della sua minoranza. Con le opposizioni in generale che però appunto come dicevo prima restano divise, oggi è stato palese quando la Lega e forse e Brunetta e Brunetta, il capogruppo alla Camera di Forza Italia, hanno detto subito facciamo una mozione comune e Di Maio, dall'alto del fatto che è comunque il secondo partito in Italia, ha detto un attimo, noi ci facciamo la nostra mozione. Se poi volete venirci dietro, ha fatto benissimo. Anche l'invito persino alla minoranza PD, che credo sia poco credibile che la minoranza PD si imbarchi nella mozione del Movimento 5 Stelle, sarebbe una specie di suicidio probabilmente, al di là di condividerla o no. Però sentiamo Di Maio, intervistato dalla nostra Betta Fiorito. Noi qui stiamo parlando di un emendamento scritto per il compagno della ministra Guidi, firmato dal ministro per i rapporti col Parlamento, che però aveva avallato il merito, lo dice la ministra nell'intercettazione, e che riguarda tutto quanto una società petrolifera, guarda caso quelle che sta favorendo il governo Renzi mettendo il referendum il 17 aprile. Questo è un problema di metodo di governo. Il caso della Guidi è l'ennesimo scandalo che rappresenta un modo di governare questo paese per gli amici e per le grandi lobby che gli pagano le campagne elettorali. Questo per noi deve finire, perché dobbiamo aiutare l'Italia, non dobbiamo aiutare le lobby e i compagni o i padri delle ministre. L'opposizione, tipo Salvini, anche Berlusconi, che poi si dice invece sia stato l'uomo che ha messo la Guidi al governo Renzi, stanno pensando di fare una mozione unica. Voi farete sempre una vostra mozione senza accordi? Noi stiamo depositando la mozione in queste ore. Chi vorrà votarla e chi vorrà votare la propria mozione di sfiducia, siamo contenti di recepire la loro posizione. Siamo di fronte ad una scelta, ancora una volta, la poltrona o la coerenza. Berlusconi, Salvini, la minoranza PD che dice di combattere Renzi, sono disposti a mandare a Renzi a casa e quindi di giocarsi la poltrona e la pensione nel 2018? A noi di queste cose non ce ne frega niente e per questa ragione presentiamo la mozione di sfiducia. Chi la vuole votare è ben accetto. Questo Di Maio, insomma, Barbara Fiammeri. Sì, appunto, dicevo, perché poi, come avviene sempre in questi casi, ognuno vuole piantare la bandierina, no? Per cui i 5 Stelle non hanno alcuna, soprattutto perché abbiamo le amministrative alle porte, non hanno alcuna intenzione di mescolarsi assieme alla Lega o a Forza Italia, avendo loro una forza che gli consente di marciare autonomamente. E quindi non ci stanno. È immaginabile a questo punto che ci sia un voto incrociato, cioè ognuno presenterà la sua mozione, forse il centrodestra, mi riferisco a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, presenteranno una mozione loro comune. Il Movimento 5 Stelle poi, per conto suo. E si voteranno le reciproche mozioni, forse, dico forse perché poi bisognerà entrare nel merito di queste mozioni, cioè è difficile che nella mozione di Forza Italia si utilizzino e della stessa Lega su questo tema si utilizzano espressioni dure rispetto all'investimento che invece utilizza Di Maio, cioè Di Maio lo contesta nel merito questo hanno progetto. Hanno posizioni diverse, insomma ci sono varie sfumature. Barbara Fiammeri, adesso vedremo nei prossimi giorni come proseguirà. Renzi sembra non aver dato moltissima importanza per il momento, anche insomma la strategia, la mozione di sfiducia, discuteremo in Parlamento e vedremo anche sulla questione del referendum sulle trivelle, insomma come andrà, se questa cosa porterà voti da una parte o dall'altra. Barbara Fiammeri, ti ringrazio, ti auguro buon fine settimana. Buonasera. Ciao Barbara. Sì, dobbiamo andare in pausa, una pausa di ricreazione, continuano i vostri messaggi, li leggerò tra poco. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, anche Roberta Giordano. I vostri messaggi, le vostre riflessioni, e tra poco continueremo con gli argomenti, nel cuore degli argomenti, delle notizie più importanti che ogni tot vi ricordo. Continuano i vostri messaggi, dicevo, sul caso Guidi, ovviamente, il caso politico della settimana, che non si fermerà probabilmente qui, ne parlavamo prima delle varie implicazioni. Tra la pagina Facebook di Effetto notte, gli sms e i WhatsApp al 349-238-6666, vado un po' di qua a leggere. Giorgio dice: non è questione di mettersi o meno, tenderei a essere garantista, però la questione è la sostanza della telefonata o quello che sembra. Angelo dice: Renzi dice che l'Italia sta cambiando quando la Guidi si dimette, ma secondo me non sta cambiando proprio niente, anzi abbiamo raggiunto un livello di mistificazione credo mai raggiunto, qualcuno dovrebbe farlo tornare alla realtà. Poi scrive Stefano da Parma: è un caso che questo scandalo sia esploso proprio ora. Stefano evidentemente ci vede del, come si dice, intervento giudiziario, orologeria, evidentemente, così dal suo punto di vista. Sergio da Milano: mi chiedo come fa la ministra Guidi a non essere indagata, perché la magistratura con la sinistra è più gentile. Ma in realtà al momento non sembra che ci siano elementi di rilevanza penale, evidentemente è indagato il suo compagno al momento. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti e poi passiamo al prossimo argomento. In caso Guidi, le opposizioni preparano una mozione di sfiducia contro il governo, Renzi difende Boschi e l'emendamento incriminato. L'omicidio di Giulio Regeni, forse una svolta dall'Egitto, ne parleremo a momenti. Il summit sul nucleare a Washington, in mano ai terroristi, dice Obama, aprendo il vertice, è la minaccia più grande. Libia, il primo ministro designato Serraj si rafforza e il premier ribelle scappa intanto a Misurata. Disoccupazione in Italia sale a febbraio, finisce l'effetto incentivi. Migranti, Amnesty International denuncia la Turchia attua rimpatri forzati in Siria. Domani giornata mondiale dell'autismo e per celebrarla da stasera i principali edifici delle città di tutto il mondo si illuminano di blu. Calcio, previsti anche metal detector all'Olimpico per il derby di domenica Lazio-Roma. Dicevo quindi il caso Regeni, una possibile svolta, delle possibili novità. È tornato il caso di Giulio Regeni diciamo all'attenzione in modo particolare questa settimana, anche se non l'abbiamo mai abbandonato questa storia terribile, con i suoi genitori che si sono esposti anche con una conferenza stampa in Senato questa settimana di forte impatto emotivo. Ma in attesa del vertice tra gli investigatori italiani e quelli egiziani a Roma il 5 aprile, dall'Egitto, vi dicevo, arrivano forse delle notizie positive. Bisogna essere sempre un po' così prudenti, visto tutte queste false piste, bugie, offensive senza fine circolate, sono arrivate dall'Egitto dal 25 gennaio in poi, dalla data in cui è scomparso il povero Gene e poi trovato pochi giorni dopo cadavere. E questa volta potrebbero essere indiscrezioni positive, perché il quotidiano Al-Akhbar, che è uno dei quotidiani egiziani più venduti, scrive infatti che una delegazione della sicurezza egiziana consegnerà martedì alle autorità italiane un esaustivo dossier e conterrebbe anche i risultati di indagini compiute da apparati egiziani sui numerosi incontri del giovane ricercatore friulano con ambulanti e sindacalisti. Questo dossier dovrebbe avere anche documenti, foto, video, eccetera. Ne voglio parlare con Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, uno dei massimi esperti di intelligence e di servizi segreti, profondo conoscitore del mondo arabo. Andrea, buonasera. Buonasera a voi. Ci vedi effettivamente uno spiraglio, una svolta positiva in queste dichiarazioni, almeno in queste anticipazioni di questo quotidiano? Ma fino adesso abbiamo letto anticipazioni di ogni genere sui quotidiani egiziani. Al-Akhbar ha una sua, diciamo, autorevolezza, se non altro perché, essendo un giornale molto importante, è abbastanza difficile che possa scrivere delle notizie, diciamo, che vanno in senso completamente opposto a quella che è la linea del governo. La sensazione è che, diciamo, nella versione dopo versione, il governo egiziano stia in qualche modo cercando di arrivare arrivare a una, così, a una soluzione di questo caso che comunque si è resa conto di non poter chiudere così con diciamo dei racconti di comodo che non stanno in piedi da nessuna parte. Ora bisogna vedere che cosa contiene effettivamente questo fascicolo e quanto questo fascicolo può aiutare a capire quello che è accaduto, anche se tutti lo immaginiamo. Quindi adesso aspettiamo con ansia il 5 aprile, che appunto è prossima settimana, l'inizio della prossima settimana, e vediamo se finalmente questa collaborazione che le autorità egiziane avevano promesso dall'inizio si concretizza, anche perché spero che l'Italia su questa vicenda non cederà mai, no? Come dicevi tu, a facili non sono facili le questioni diplomatiche, no? da tenere in equilibrio. Sì, ci sono questioni diplomatiche, ci sono questioni economiche, finanziarie, in quel senso, certo, che ci diciamo legano all'Egitto, e quindi è chiaro che questa vicenda pesa moltissimo. Per essere molto chiari, anche perché insomma, la sensazione che io ho, ma non solo io, è che evidentemente il presidente Al-Sisi sappia esattamente quello che è accaduto. Beh, al punto in cui siamo, ma credo che lo abbia capito e saputo da subito. Il problema è come raccontarlo. Giulio è certamente finito nelle mani di qualche apparato di sicurezza. Se questo apparato di sicurezza non rispondeva ad Al-Sisi perché rispondeva magari ai suoi oppositori, ai fratelli musulmani che lui ha deposto facendo arrestare il presidente Morsi e quant'altro, certamente è una verità scomoda anche per lui, perché significa che non ha il controllo. Che non ha il controllo del paese. Se invece sono apparati che rispondono a lui, è ancora peggio. Certo. E quindi diciamo riuscire poi a trovare la quadra in questa situazione non sarà facile. È molto complicato, non sarà facile. No. Grazie Andrea Purgatori. Ciao. Grazie Andrea. A voi. Ciao, buona Grazie. Continuazione. Viabilità. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto velocemente, quelle principali: Renzi difende il governo sul caso Guidi e la ministra Boschi, il Movimento 5 Stelle attacca e chiede la sfiducia contro il governo. Svolta dall'Egitto, ne abbiamo appena parlato, probabilmente una svolta. Giulio Regeni era seguito dai servizi, questa è un'anticipazione di uno dei quotidiani egiziani più venduti in Egitto, e dice che insomma dovrebbe arrivare un dossier importante il 5 aprile qui agli investigatori italiani. Finisce l'effetto incentivi per quanto riguarda l'occupazione, la disoccupazione sale a febbraio in Italia. In Libia il primo ministro designato dall'ONU Sarraj si rafforza, mentre il premier ribelle scappa a Misurata. Intanto 10 città della Libia passano con il nuovo governo. Il leader del mondo da Obama al summit su ISIS e sicurezza e sul nucleare dice Obama: dobbiamo fare il massimo possibile per evitare che questi armamenti cadano nelle mani dei terroristi. Amnesty sui migranti denuncia rimpatri forzati in Siria da parte della Turchia, e poi crack da 300 milioni in 9 anni all'immobiliarista Coppola. Europa 24 notte. Parliamo del Niger, tappa obbligata delle rotte migranti dall'Africa occidentale verso la Libia e l'Europa. Oggi il Niger è un partner importante dell'Unione Europea nella travagliata regione del Sahel. Un ruolo rafforzato dalla Commissione Juncker, che con alcuni interventi specifici vuole contrastare il passaggio di migranti, evitando che arrivino sulle coste del Mediterraneo per tentare poi la traversata. Le istituzioni europee si muovono però in un panorama complesso in cui i trafficanti, la corruzione delle autorità locali e la volontà dei migranti stessi spingono in un'altra direzione. Perché adesso la Libia sono 3 o 4 giorni nel deserto. Se non hai da mangiare puoi morire lì e nessuno ti aiuterà. Tutti fanno business, tutti ci guadagnano. Appena arrivi a Gades ti dicono: vieni qui, vieni da me, vieni che si sta bene. Così sono salito sul taxi e mi hanno portato in questo ghetto. Ma qui non si sta per nulla bene. Ci sono batteri, malattie. Ma se non hai soldi non puoi proseguire. Durante il viaggio ho fatto molta esperienza. Se resti in Senegal continui a pensare: voglio uscire, voglio andare. andarmene, ma quando parti impari molte cose. Alcuni perdono più di 1.000 euro, dal Senegal fino alla Libia. Questo è duro, perché poi se ritorni devi ripartire da zero. Ma Dio è buono, è Lui che ci ha fatto arrivare fino a qui, è il destino. Ibrahima, come migliaia di persone che attraversano l'Africa occidentale con il miraggio delle coste italiane, è bloccato nella città di Agadez, in Niger, tappa obbligata sulla rotta verso la Libia. Qui, nel cuore del Sahara, l'agenda sulle migrazioni dell'Unione Europea prevede l'apertura di un centro per assistere i migranti in transito e favorirne il rientro in patria. Partner operativo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, rappresentata dal capo missione Giuseppe Loprete. Lungo tutta la rotta migratoria sono costretti a pagare molte volte il loro passaggio, non sanno neanche loro se si fermano a un checkpoint regolare o irregolare, sanno solo che devono pagare, soffrono di tutta una serie di abusi già durante il viaggio, psicologici, sessuali, vengono picchiati, perquisiti dappertutto per trovare dove sono nascosti i soldi. Con i nuovi programmi finanziati dall'Unione Europea, da alcuni paesi europei, tra cui l'Italia e l'Inghilterra per esempio, noi vogliamo adesso concentrarci sui flussi che stanno andando verso l'Europa, e quindi già a questo punto, già da Agadez, vedere quanti migranti sono disposti a non andare più in Libia perché è troppo pericoloso e accettare delle soluzioni alternative. Per chi si lascia alle spalle povertà, dittature e conflitti, pensare al ritorno non è però facile. Sapevo che era pericoloso. Alcuni miei amici sono morti nel viaggio, ma io e tutti i ragazzi qui intorno ci stiamo giocando la vita. Penso che arriveremo in Europa, se Dio vuole. I nostri genitori non volevano che partissimo, continuano a pregare per noi, ma non c'è scelta. Dobbiamo partire per vedere un cambiamento, per noi e per il nostro paese, il Gambia, dove c'è una crisi economica e non puoi esprimerti liberamente, non puoi dire nulla. Così siamo costretti a partire, in cerca del nostro futuro. A sud di Lampedusa, l'Europa e le migrazioni viste dal Niger. Un reportage di Marina Berarducci e Giacomo Zandonini. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Il terrorismo ci cambia inevitabilmente la vita, perché pensate anche per quanto riguarda le partite. Domenica c'è il derby Lazio-Roma all'Olimpico e ci sarà una partita, vabbè, delicata come sempre sotto il profilo dell'ordine pubblico per i cretini nostrani, però quest'anno è accompagnata dall'allerta terrorismo, vero Carlo Genta? Vero Roberta, vero, buonasera a tutti. Ciao Carlo, nostro Carlo Genta, tutti i giorni con tutti convocati. Guarda, è una situazione veramente paradossale, perché sarà il derby più deserto della storia del calcio, derby di Roma naturalmente, perché per ragioni nostre, per ragioni di conflitti tra le tifoserie e i presidenti, per ragioni di questioni interne al calcio italiano che nemmeno i terroristi sarebbero in grado di capire. Santi nomi. Però, sì, però il prefetto Gabrielli giustamente ha deciso, dopo quello che è successo a Bruxelles, dopo quello che sta succedendo in Europa, di adeguarsi alla direttiva europea e quindi mettere i metal detector all'ingresso di uno stadio che sarà deserto come mai è successo, ripeto, nella storia del calcio della capitale, ma per ragioni che appunto non riguardano il terrorismo, che non riguardano il calcio, ma che riguardano soltanto i conflitti tra tifoserie italiane, tifoserie romane e i rispettivi presidenti. Quindi, ditemi se questo è possibile. No, ma è ridicolo e paradossale tutto questo, perché per quanto criminale uno possa essere, ovviamente i terroristi lo sono, non potrebbe mai scegliere il derby di Roma come palcoscenico mondiale delle sue malefatte. Perché per l'appunto sarà una partita deserta, praticamente nessuno. Deserto. Grazie deserto. Carlo Genta, così i terroristi hanno più paura degli ultra nostri che non dei problemi interni del calcio, che non sì, paradossale. Sì. Grazie Carlo, a tutti Ciao, convocati Roberto, tutti i giorni, buonanotte. Ciao. Invece però... adesso c'è il nostro Paolo Corazzone, che certamente ci darà, meno lui, delle buone notizie solari. Direi Paolo Corazzone di Trebi Meteo, il portatore sano di sole. Ma certo. Buonasera Roberta, stavolta dovrebbe andare veramente tutto bene, quindi insomma, non è merito mio. D'altro canto il tempo ci regalerà un weekend nel complesso buono, e anche se partiremo domani con un po' di nuvole in tutta Italia, soprattutto al centro nord, però nuvole che non porteranno piogge, piano piano lasceranno spazio a delle belle schiarite. La giornata migliore sarà domenica, perché a quel punto il tempo dovrebbe essere veramente bello da nord a sud, solo qualche nuvoletta di passaggio, e poi più che altro, questo per l'intero weekend, temperature che si mantengono sopra la media, addirittura temperature da mese di maggio, arriveremo a toccare i 25 gradi, al sole forse sulla pelle li supereremo anche, quindi stavolta davvero c'è da essere contenti, direi, ecco. Paolo, e tu quindi soffierai su eventuali nuvole, hai detto che saranno giusto di passaggio, quindi sentirete queste folate. Quello che ti posso anticipare è che però aprile ci regalerà, tra virgolette, anche dei passaggi nuvolosi. Ad esempio il prossimo weekend torneranno le perturbazioni. Quindi programmiamoci questo nel migliore dei modi, perché mi sa che il prossimo sarà tutta un'altra storia. Godiamoci questo. Grazie Paolo Corazzone, comunque sia. Buon tempo grazie, a te. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao Paolo. Credo che non ci sia tempo per leggere altri messaggi, no? Mi dice... la nostra Roberta dall'altra parte, e quindi ci risentiamo alle 22.